Allora, buonasera, siamo in diretta dal Masado a Castelbuono per questa nuova puntata di Rock Revolution dal vivo. Siamo tornati con immenso piacere nuovamente al Masado per questa diretta, per la vigilia di Natale. Vi terremo compagnia quindi con la musica in diretta su CRMP Radio, la radio che si sente e che si vede. Anche questa sera la formazione al completo con il nostro regista Gianni, buonasera. Simone, carissimo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, che bella questa diretta esterna. Hai visto? Guarda, questa è una delle dirette che più mi piace. Venire qui a Castelbuono è uno dei posti dove mi fa più piacere venire ogni anno, la gente è sempre molto calorosa, gli amici sono sempre numerosi, quelli che ci vengono a trovare. Ci sono anche tante band, insomma, che sono venute da Castelbuono. Sentite già il brusio della gente che è venuta qui a trovarci. Locale che si comincia anche a riempire a poco e ne siamo anche felici di questo. Assolutamente, assolutamente. Anche stasera, insomma, abbiamo preparato una bella playlist con un sacco di bei pezzi rock and roll. Quindi se avete il piacere, venite a trovarci direttamente di persona al Masado qui a Castelbuono, oppure ascoltateci in radio su 101.4 di CRMP Radio, ma siamo anche in streaming dal nostro sito. Assolutamente sì, collegato a www.rockrevolution.it potete appunto ascoltarci anche in streaming, così come anche sul sito di CRMP Radio, appunto crmpradio.it. Ancora, se volete contattarci su Facebook, siamo online. Se non siamo già presenti tra i vostri contatti, cercate e aggiungete Rock Revolution redazione. Perfetto, va bene, iniziamo con la musica. Questa è la musica che fa da protagonista di Rock Revolution e questo è un bel pezzo, si intitola Are You Gonna Be My Girl? So 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see. Said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you her with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah, I said, are you gonna be my girl? Che bella sta canzone, Are You Gonna Be My Girl? Rock and roll questa sera a Castelbuono, ragazzi, c'è un'aria veramente molto molto frizzante, ma ci fa piacere perché, insomma, dopo il caldo che c'è stato in questi giorni, un po' d'aria fresca non fa mai male, perché ringiovanisce. E io e Gianni, che siamo vecchietti, con quest'aria torniamo a meno indietro di 10 anni. Simone invece se ne frega e sta messo lì attaccato al computer come ogni sera. E che sta facendo? Boh, non si capisce. Allora, anche stasera, come già anticipato da Simone, siamo su Facebook, quindi se siete a casa e non avete possibilità di muovervi, sapete che ci potete ascoltare su internet, e ci fa piacere anche se volete mandare dei messaggi di auguri agli amici che sono qui al Masado. Sapete, stasera verrà un sacco di gente, noi siamo contenti, quindi venite a trovarci questa sera al Masado, fate degli auguri ai vostri amici e noi praticamente faremo da tramite. Vabbè, ho parlato abbastanza, stasera ci sarà tanto da parlare, ci verranno a trovare tanti amici. Siamo al Masado in diretta su CRM per Rock Revolution, ascoltiamo il prossimo pezzo, che è un bel pezzettino tosto tosto. To listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a sentito tanti anni fa, io ricordo forse è stato il primo CD a circolare in Italia, un CD con una copertina veramente molto carina, con un disegno fatto proprio da uno dei componenti di Green Days, non ricordo esattamente chi, credo il batterista. Vabbè, ci sta avvicinando anche il nuovo anno, ormai mancano pochi giorni al nuovo anno e si avvicina anche il momento clou di italiano, insomma, che poi a Sanremo il Festival della Musica, ma ne parleremo fra un pochettino con Simone. Adesso arriva un bellissimo pezzo di chi è? Vabbè, non lo sento, facciamo scoprirlo a voi. Se pensi che possa cambiare il mondo, ti sbaglia la grande. E già tanto se mi cambio le mutande. Voglio solo darti un'emicrania lancinante, fino a che non salti nel vuoto come uno stuntman. Pensavi che sparassi palle? Bravo! Io sono il drago di Puzzle Bubble. Come Crash mi piace rompere le scatole, ma rischio le mazzate che nemmeno Double Dragon. Sarà per questo che c'è sempre qualche blogger che mi investirebbe come a Frogger. Gli bucherò le gomme, bye bye. Al limite può farmi una siga mega drive. Non mi vedrai salvare un solo lemming, né stare qui a fare la muffa come Fleming. Non darmi Grammy né premi da star, ma giocati il tuo penny e premi start. Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla miura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla miura di me. Io faccio politica pure quando respiro, mica scrivo musica giocando a Guitar Hero. Questi argomenti mi fanno sentire vivo, in mezzo a troppi zombie da Resident Evil. Ma che divo, mi chiudo a riccio più di Sonic, fino a che non perdo l'armatura come a Ghost and Goblins. Mi metto a nudo, io non mi nascondo come Snake in Metal Gear Solid. Ho 500 amiche, intesi, faccio canzoni, mica catechesi. Prendo soldi con il pugno alzato come Super Mario, ma non li ho mai spesi per farmi le righe come a Tetris. La scena rap è controversa, sfuggo con un salto da Prince of Persia. Io non gioco le Olimpiadi Konami, se stacco le mani l'agitazione mi resta. Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla miura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla miura di me. A miura di me, a miura di me, a miura di me. Abbiura di me, abbiura di me, abbiura di me. forte sogno di aumentare le armi, perché la terra mi pare talmente maligna che in confronto Silent Hill assomiglia a Topolinia. Io devo scrivere perché se no sclero, non mi interessa che tu condivida il mio pensiero. Non cammino sulle nubi come Wonder Boy, mi credi il messia? Sono problemi tuoi. Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo fino alla viura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo. Un po' cattivo stasera, Gianni ha iniziato con qualcosa di veramente molto molto tosto, devo dire, effettivamente è un po' tosto, Simone, no? Ci sta anche per alimentare un attimino la serata. Infatti, tanta gente sta arrivando, ci fa piacere, sono arrivati a trovarci anche i Crash, una parte dei Crash, poi ci raggiungeranno un po' tutti per parlare di questa bella esperienza che hanno fatto in California. Adesso Skunk and Nancy. Your way. just for touching. Yes, I do. Nickelback con questo pezzo tratto direttamente dall'album The State. Allora, noi sappiamo, insomma, c'è sempre tanta gente che da Castelbuono ci segue. Ci sono anche tante band interessanti a Castelbuono, no Simone? Sì, ci sono tantissime band interessanti. Poi qui, insomma, Castelbuono ogni anno ospita l'Ipsy Rock, che è comunque un incontro molto importante a livello internazionale. Comunque sì, c'è una cultura rock decisamente ammirabile. Infatti, poi allora noi volevamo sempre ricordare che ci sono tante band che ci scrivono. Fatelo anche voi al nostro indirizzo redazione@rockrevolution.it per segnalare la vostra esistenza, in modo tale da poter anche partecipare alla nostra puntata del venerdì sera. Come sapete, noi promuoviamo la musica emergente e siamo sempre contenti di farlo, insomma, dai. Salto indietro nel tempo. Sono gli Status Quo. Si intitola Down Down. Hey! facciamo un bel salto indietro nel tempo, come con successo con gli Status Quo, e andiamo a ripescare una di quelle canzoni che forse in questo momento proprio non è adatta, perché è una situazione un po' estiva, no? Un po' di caldo, da spiaggia, palme, magari con delle belle ragazze in bikini che passeggiano sui pattini. Però insomma cerchiamo di adattarla in onore degli amici di Castelbuono, The Crash, che sono stati in California. Across the USA, then everybody be served like California. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch them surfing at outside Ventura USA. County line, inside Santa Cruz and inside. I Korn, questo pezzo veramente tosto, stasera Gianni veramente sta dando il meglio di sé. Durante la puntata in diretta, no, in studio, si mantiene un po' tra le righe, stasera proprio si è dato... Si sta scatenando. Alla pazza gioia, alla pazza gioia. Allora, siamo in diretta su CRMP Radio, la radio che si sente e che si vede, anche questa bellissima vigilia di Natale, siamo a Castelbuono, al Masado, che è praticamente in centro, non so dirvi esattamente l'indirizzo, però insomma ci trovate, sentite rock and roll all'esterno e siamo noi di Rock Revolution. Adesso facciamo un altro bel pezzo, questi qua sono i Killers, che sono praticamente veramente molto forti, tratto dall'album Hot Fuzz. Stiamo ripercorrendo un po' quelle che sono le tappe della musica rock and roll degli ultimi anni in occasione di questo Natale che si sta avvicinando. Ormai chissà che ore sono, io ho perso la cognizione del tempo, però sarà quasi mezzanotte. Ci dobbiamo fare anche gli auguri. CRM Rock Revolution al Masado live, veniteci a trovare. Siamo spostati all'esterno del Masado, questo bellissimo pub a Castelbuono, che si trova in questa viuzza che onestamente io non ricordo come si chiama. Scusate ragazzi, buonasera, auguri. Si chiama dove c'è il Masado? Via Daphne, perfetto. Allora, in via Daphne c'è il Masado a Castelbuono, vicino ai Quattro Cannola. Dietro i Quattro Cannola. Allora, siamo qui con Rock Revolution questa sera per questa nuova puntata in diretta su CRMP Radio. Simone, si sta bene adesso? Temperatura è migliorata? Si sta bene, sicuramente. Guarda quanti sì. Belli amici siamo venuti a trovare. Giro di birra mi sa che c'è qua. Buonasera, auguri. Grazie. Come ti chiami? Francesco. Allora, tu hai iniziato a bere birra? Allora, stamattina, bravo, mi fa piacere. Tu invece? Leonardo, birra sempre anche tu? No. Senti, ma con sto freddo non sarebbe meglio magari un amaro, un bicchiere di vino? Dopo dici, questo qui è l'antipasto, capito? Vabbè, allora voi siete. Come siete messi? Che musica ascoltate? Fratello di Antonio Mucchini. Ah, tu che ti piace una band che ascolti? Guns N' Roses, qual è quella che ti piace di più? November Rain. Sì, ma vabbè, adesso te la faccio mettere. C'è un'altra richiesta che volete fare? Qua c'è un'altra richiesta. Gianni, prendi nota con carta e penna che adesso... Metallica, quale? L'album nuovo oppure gli album quelli un po' più... Master of Pop, è un buon gustaio. Andiamo a segnare. Senti, ma allora, che ne pensi del nuovo album, ad esempio, Death Magnetic? Sì, è bellissimo. È bello, quindi speed metal ti piace un, più, ti piace un po' più rispetto a quello prima? Sì, sì. Va bene. Sono good. Anche in Theater. Vabbè, Gianni ha preso nota. Adesso vediamo un po' che si può fare. Già. Buona serata, buon divertimento, ragazzi. Invece adesso ascoltiamo un bel pezzo che non è quello che proprio hanno chiesto i ragazzi. Ci avviciniamo un pochettino. Caro Gianni, cosa, hai preso nota di quello che i ragazzi hanno chiesto? Guns N' Roses, Dream Theater. Adesso vedremo di accontentarvi. Siamo in diretta e quindi avete possibilità anche di sfruttarci. Fisicamente no. Psicologicamente potete fare le richieste che, dei pezzi che più vi piacciono. Simone, hai visto che bei gusti, Metallica, sì, sì, veramente sì, dei gusti veramente, veramente apprezzabili e li appoggio in pieno. Infatti, ma Castelbuono si sa che è una bella cultura rock and roll, grazie all'Ipsy Rock e tante altre manifestazioni che vengono organizzate, ci sono anche tante band, quindi è una cosa molto sentita. Sarebbe bello anche nei paesi del circondario ci fosse questa mentalità aperta e questa predisposizione alla musica. Va bene, Rock Revolution live al Masado, pronto il prossimo pezzo? Mi fermo, non parlo più, va bene? Late canzone dei Queen, Tie Your Mother Down. Questo è parliamo degli anni 80 praticamente. Stiamo ripercorrendo un po' tutti quelli che sono stati gli ultimi anni della musica rock and roll. Sono usciti ultimamente Queen con la formazione, no, di Simone, di Paul Rogers. Però ecco, non è che proprio mi va a genio, forse anche perché siamo abituati alla musica, quella di Freddie Mercury, e quindi sentire un po' la voce... È un po' difficile, diciamo... È un po' difficile. Io volevo sentire un po' fra le persone. Ciao ragazzi, buonasera, ciao. Ciao. Allora, voi conoscete Queen, immagino, no? Sì. Perfetto. Allora, voi conoscete quale canzone di Queen, la più famosa? Free. I Want to Break Free, perfetto. Il pubblico avete mi suggerisce We Are The Champions. Avete mai sentito il nuovo album di Queen, Porto Freddie Mercury, però adesso c'è Paul Rogers che è un grandissimo cantante che ha preso il suo album, però siccome c'è il nuovo album e si vince un bicchiere di vabbè, allora vi diamo 10 minuti di tempo per prepararvi sul nuovo album dei Queen e poi vi faccio la domanda: se vinci un computer ce l'abbiamo, però non vale, puoi usare o l'aiuto da casa o quello degli amici oppure la benedizione, non lo so. E vabbè. Allora, fra un po' ti facciamo questa domanda e vinci un bicchiere di vino, va bene? Nel frattempo, invece, facciamo una bella canzone dei Nirvana, grande Kurt Cobain. Sono arrivati già dei messaggi da Facebook. C'è Mirko che ci ascolta dal Piemonte, no? Sì, Mirko che manda un saluto a tutti gli scellerati presenti al Masado e in particolar modo a quei due disperati di Saro e Domenico. Tutto questo appunto Mirko DJ che afferma di stare per tornare. Caro Mirko, sta tornando. Domenico, hai capito? Va bene, salutiamo Mirko. Ci dispiace che tu non possa essere qui con noi stasera. Ci stiamo divertendo, proprio alla grande. Infierisco proprio un po'. Vabbè, arrivano i Red Hot Chili Peppers. Tell me when it's time to smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship as a beer ring. Use my hands for everything we're fearing. Can't stop the spirits when they need you. Mom stops are happy when they feed you. J-Fox are flyers in the cheetah. Birds that blow the meaning in the people. The world I love, the tears I've dropped. To be part of the wave, can't stop. Ever wonder if it's all for you. Sappiamo che in questo momento ci stanno ascoltando anche dalla California, da Ventura, giusto? Da Ventura, sì. Hi guys! Hi guys, Merry how are Christmas. You? Merry Christmas! In inglese stasera. Poliglotti. Fun, poi che sappiamo ancora. Quell'altra parola, quell'altra frase. Good evening! Ok, live from Castelbuono City, Rock Revolution live at Masado Pub. Allora, buon ascolto agli amici che ci ascoltano in California, ci stanno ascoltando, ci fa molto piacere, insomma, arriviamo molto lontano, saranno le 6 del pomeriggio. Sì, meno male sì, ve lo chiederemo poi ai Crash, che sicuramente allora, meglio di noi sanno il fuso orario californiano. Infatti, so I would like to receive feedback from California about yeah. the time, ok? Vabbè, ascoltiamo il prossimo pezzo che è questa sera in playlist, che è un pezzo bello che Gianni mi ha preparato, lo so che è bello perché vedo la sua faccia e sorride, però non so qual è il titolo della canzone e quindi l'ascoltiamo. Ah, Sony Metallica, ragazzi, qua si deve pogare e si deve stare con la mano su, con le tre dita. Questo è Saint Anger, Frenic. La potenza devastante dei Metallica con Saint Anger, questo è un pezzo che veramente spacca tutto e vabbè, è bello così. Allora Simone, ci sono delle cose da ricordare per il Masato? Sì, io ne vorrei approfittare per ricordare le prossime serate dal vivo qui al Masato. Allora partiremo il 26 dicembre con i Luke Skywalker and Maury Chewbacca Live. Yeah! Yeah! Andiamo poi al 28 dicembre con un doppio DJ set, Noise vs Dado. Bene. Ancora passiamo al 30 dicembre, un altro doppio DJ set, questa volta Mirko vs Dado. Partiamo poi invece, andiamo all'anno nuovo, ovvero il 2 gennaio, un ulteriore DJ set di Savide, un anagramma. Mentre il 5, forse c'è anche qui Savide, quindi Savide, magari, ci sei, batti un colpo. Qui ho sentito un urlo. Savide fan di Savide. E infine il 5 gennaio una serata Beatles a cura dei Munari. Senti, sento un giro blues sottofondo. Pregherei il caro regista Gianni di ascoltare questo bel... C'è anche un poster lì del grande Jim Morrison. Sono i Doors, questo è Roadhouse Blues. Scusa, me lo fai all night long, vai. All night long. Perfetto, bravo, ora siamo contenti. Allora, adesso facciamo un po' di musica italiana, visto che ci sgridano sempre, facciamo musica internazionale. facciamo musica italiana. Si è parlato tanto di loro, di Piero Pelù, no Simone? Si parla anche del loro ultimo tour che ha vinto il premio al MEI, il meeting delle etichette indipendenti quest'anno. Il tipo sono aggiudicati il premio come miglior tour del 2010. Che dir si voglia. Che dir si voglia. E con questo abbiamo detto tutto. Arriva Piero Pelù. Hai detto questa è la tua strada, stare fuori o darci dentro, vuoi restare e giuri di non cascarci mai, mai più, lo senti? Si scherzava, no? Con Gianni. E io gli ho chiesto a Gianni: senti, ma adesso che pezzo mettiamo? E lui mi ha detto: adesso mettiamo un pezzo di Checco Zalone. Ma chi lo conosce il pezzo di Checco Zalone? Tu lo conosci? Aspetta, come mi metti un attimo, Gianni, mi metti un attimo pausa, per favore. Volevo sentire quello lì, Checco Zalone. Era dedicato a quella sua fidanzata. Come si chiama? Sua ex fidanzata. Alla sua ex fidanzata, Angela. Te lo ricordo. Vai, cantamelo. Come non lo canti? Mezzo lo sapevi? Non lo ricordo. Facciola. No. Pipi. Era nel film. Facciola. Il titolo era Immensamente Angela. Non lo sa nessuno qua. Zio Santuzzo. No, che Zio Santuzzo? Non era questo il peso. No? Non lo sa nessuno. Simona lo sa. Vediamo Simona. Ce lo canti. Filippo, allora, tocca cantarlo a te. No, io lo canterò mai. Me la canti tu Gianni, un pezzettino. Un pezzettino. Non se la ricordo. Vabbè, facciamo di status quo che è meglio. Questo è Whatever You Want. Whatever you need, whatever you win, whatever you lose. Senti, questo è un pezzo che si sentiva un sacco di tempo fa, però ho visto questo ragazzo che lo cantava. Ti ricordi il nome del pezzo? No. Status Quo? No. Whatever You Want? No. Niente, no, vabbè, è andato, ragazzi. È andato, ok, vabbè. Tu lo sapevi, si chiamava... No. Sei un cultore di musica rock? Sì. Ascolti? Ozzy Osbourne, senti, cosa ascolti di Ozzy Osbourne? Di tutto. Allora, fai Crazy Train, Mr. Crowley. Allora, Paranoid, un sacco di pezzi. Black Sabbath, guarda, stanno impazzendo. Gianni, fermali, ti prego, non ne posso più. Allora, vabbè, allora voi lo sapete che a Cefalù c'è la casa di Mr. Crowley? Bravi, ci siete andati? No. Bravi, non ci andate. Vabbè, arriva un pezzo, sono in Subsonica, nuova sessione. Sonica, nuova ossessione, tra l'altro stanno lavorando, ho fatto uno scioglilingua tremendo. Stanno lavorando? Sì, stanno lavorando al nuovo album che uscirà intorno al mese di aprile, però nel frattempo ha anticipato questo lavoro il loro nuovo singolo, ovvero Eden, che è in rotation su tutte le principali, sui principali network e anche sui iTunes, il cui titolo è appunto Eden. Che bello, vabbè. Allora, è una notizia interessante, questa è Subsonic, una band italiana che sta avendo grandissimo successo anche all'estero recentemente, sono stati impegnati in un tour europeo, città come Londra, Amsterdam e così via, e adesso invece facciamo un salto indietro nel tempo e facciamo contento uno dei ragazzi che questa sera, come tanti altri numerosi, sono qui al Masado a Castelbuono. Ricordo, siamo in diretta su CRNP Radio con Rock Revolution, andiamo ad ascoltare un bel pezzo di Ozzy Osbourne. Take the world in a loving grave. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning. Oh, I do too. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Oh, that's so sweet. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving grave. Oh, Ozzy. Fire all of your guns at once and explode into space. Oh. Like a true nature child, we were born hard to be wild. Yes, yes. We can climb so high, so high. I never want to die. Yes. Oh, Ozzy, yes. Oh. Born to be wild. Born. Oh. trova mia. Mi faccio le spinetta, ma posso piccarsi mia. Si sogno colizzato, a me ci non va niente. Mi la sini, frate, frate, mi scioglio che gente. E ti picchio tranquilli, ci scassi sembra minchia. E spacciatura a me ci tu ci fai le riverenze. Mi chi non ha le prove, oppure non accampare. Mi chi lo pane a casa, pure vinto a contare. Che si fatica meno, e grana se ne appare. La mamma si fa sorda. Allora, io sento che ci sono un sacco di persone che conoscono questa canzone, no? Allora, mi farebbe il piacere sentire un bel coretto con la polizia, no? Che fa... Come fa la polizia? Come fa? Più o meno. Però dobbiamo organizzarci meglio. Allora, ragazzi, attenzione. Ciao, scusa, fermi tutti un secondo. Allora, ho bisogno della vostra collaborazione perché dobbiamo fare la sirena della polizia, eh? Allora, pregherei la nostra regia. Attenzione. Attenzione, la sirena della polizia. Attenzione. Pronti? Pronti? Pronti? Pronti? Pronti? Pronti? Ah. Attenzione, eh. Vai, vieni qua. Allora, mi fate sentire la sirena della polizia? Uno, due, tre. No, non è così. Non è così la sirena della polizia. Vabbè, va, andiamo avanti, che forse è la cosa migliore. Sono gli Offspring, che bello, questa sera proprio californiani a manetta, eh? Vabbè, ci stava di brutto. Siamo in diretta su CRMP Radio Rock Revolution, nuova puntata, il programma rock di CRMP Radio ogni venerdì sera dalle 21 alle 23, rigorosamente rock and roll. The winds of fortune don't blow the same. She had to get out and make a change. She had a kid now, but much too young. That baby daddy. Consequences are a lot for a. That's se soffri bene vinci il premio di consolazione, chi non salta l'eccezione. Dicono che i soldi sono tutti gratis, ma sono quasi tutti quanti usati. Copriti per bene che non ti conviene il mondo qui. Sei già dentro l'happy hour, vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Sei già dentro l'happy hour, vivere, vivere solo la metà. E la vita che non spendi, che interessi avrà? Stare in riga, che all'inferno si può far casino, mentre il purgatorio te lo devi proprio infliggere. Sei già dentro l'happy hour, vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Quanta bella gente, che bello questa sera a Castelbuono al Masado in diretta su CRMP Radio. C'è un freddo, ragazzi, veramente incredibile. Si è messo anche vento. Come ci dobbiamo proteggere? Col calore. Con il calore. Che scoperta. Col calore umano. Col calore umano. Allora, facciamo un appello? Facciamo un appello? Viva la Regna. Ma che è? Vabbè, ok. Abbiamo capito, ti vuoi scaldare in un modo un po' poco opportuno. E facciamo un pezzo. Che, no, facciamo un pezzo. Vabbè, io intanto volevo salutare tutti quanti gli amici che sono venuti qua stasera. E sono davvero tantissimi fuori dal Masado, in diretta su CRM, per questo nuovo evento di Rock Revolution. Ormai è diventato un'abitudine. Ogni vigilia di Natale noi siamo al Masado. E questo ci fa sempre molto piacere, anche perché incontriamo tanti amici e tanta gente che è qui presente. Vabbè, facciamo il prossimo pezzo. Una serata all'insegna del rock, un Natale rock. Ci voleva una Jingle Bells rock and roll, però non ce l'abbiamo. E quindi ci accontentiamo di che cosa? Di che cosa? Di che cosa? Volevo saperlo da Gianni, però lui non parla, proprio in muto. Ascoltiamo, va, che è meglio, va. Blood to Free Bordians. Questa è poi anche una colonna sonora di un film importante. Tanti auguri. Sentite insomma le voci degli amici qua al Massado, sono davvero tanti, ci fa piacere. Andiamo indietro nel tempo ancora una volta e andiamo ad ascoltare un bellissimo pezzo italiano questa volta. Loro sono i Matrioska, 18 e 23. Sono i Matrioska, band italiana che ha avuto un discreto successo a livello nazionale e internazionale, una delle poche band italiana che fa musica ska. Adesso un passo indietro nel tempo e questa è bella, dai. Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule, American history and practical math, you study them hard hoping to pass, working your fingers right down to the bone. Lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. See, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Into the slot, you gotta hit something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance, feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. Way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin. bello tornare indietro nel tempo con i classici della musica rock and roll. E adesso torniamo indietro. Questi qua sono i Guano Apes, grande successo, poi una cover tra l'altro. Si titola You're Big in Japan. Winter city side, crystal bit of snowflakes all around my head in the wind. I had no illusions that I ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. You're big in Japan. You're big in Japan. Ebbene, siamo al Masado, Castelbuono, per questa nuova diretta di Rock Revolution Live, in questo locale che ci ospita ogni vigilia di Natale. È una bella cosa, festeggiare il Natale a suon di rock and roll è sempre una bella cosa. Torniamo indietro nel tempo con una canzone anni 70, quando c'erano ancora le radio libere. Messenger, che bella questa canzone, guarda quanta gente c'è qua a Castelbuono, veramente, oh. Sono proprio contento. Babbo Natale, come va? Bene. Bene, Babbo Natale con la voce femminile non si è mai sentito, veramente, però vabbè, va bene uguale. Allora, volevo fare un giro per vedere se troviamo un po' di amici, ci sono musicisti, ci sono artisti, c'è il nostro carissimo esponente dei White Acid Rainbow, Lin. Come va? Che notizie mi porti di bello? Ah, ti fa, sappiamo che è andato in California. La grande, la grande. Fuori di testa però, è incorreggibile. Sempre lui. È sempre lui. Ci fa piacere. Vabbè, siamo in... Che diremmo, fateci sempre sapere. Certo, certo. Buonasera, Pento Carolino. C'è davvero tantissima gente, mi faccio confusione anche a muovermi fra la gente. Però è sempre una bella serata, è sempre un grandissimo calore qui a Castelbuono. Facciamo un po'. Ciao, come ti chiami? Come ti chiami? Francesco. Francesco, tu ascolti il rock? Sì, certo. Qual è la tua band preferita? Gli ACDC. Ah, gli ACDC. Qual è la canzone più bella degli ACDC che ti piace? Back in Black. Back in Black. Allora, caro Gianni, prepariamo Back in Black degli ACDC, che adesso dobbiamo sentirla. Grazie, caro, buon divertimento. Auguri, auguri, auguri anche a te. Tanta gente. Allora, Babbo Natale 2, come sta andando? Tutto a posto. Tutto bene, si lavora? Bene, davvero tantissima gente, siamo contenti questa sera. C'è anche un caro amico vecchio, caro Davide, auguri caro, auguri a tutti gli ascoltatori. E il nostro fotografo ufficiale, caro Peppe. Buon Natale a tutti, ciao. Brevissimo, proprio brevissimo. Allora, ci sono dei saluti, Simone, vuoi farli tu? Vieni qui. Allora sì, tramite Facebook ci fa gli auguri di Buon Natale a noi, a tutto il pubblico e ai clienti del Masado, Edoardo Massaro, e noi ovviamente ricambiamo gli auguri. Caro Edoardo, tanti auguri anche a te, la musica continua con Rock Revolution Live dal Masado a Castelbuono, buon ascolto! Tell me how to, or anything you really want. davvero tanti gli amici ci seguono anche oltre Alpe, dalle California, insomma dalla Svizzera, dall'Inghilterra questa sera per il Masado. Siamo molto contenti, insomma, che ci state ascoltando e magari non potete essere qua, quindi noi vi facciamo tanti auguri di Natale da Castelbuono, da Rock Revolution, e venite presto a trovare. Sono anche molti, molti ragazzi da Castelbuono che non possono essere qui questa sera per motivi di lavoro, quindi noi diamo loro un grandissimo abbraccio con affetto da Castelbuono e vi regaliamo questo pezzo che forse è un pezzo così, sentite? Riconosciuto? Ricky Valens, questa è La Bamba! Pezzo, cari amici di Castelbuono, ho bisogno della vostra collaborazione. Allora, amici del Masado, per favore, ho bisogno delle vostre mani alzate con le tre dita su nel cielo per fare partire il prossimo pezzo. Grazie da fuori, anche se siete troppo gentili. Attenzione, prossimo pezzo è un pezzo veramente molto rock and roll. Can't be. quelli che sono i grandi successi classici della musica rock and roll e alterniamo con quelle che sono poi le canzoni più toste, più cattive, più dure del rock, quelle che poi a noi piacciono particolarmente. E questo è il riff iniziale di chitarra che introduce a questo pezzo Rock Revolution al Masano CRM Piredi questa sera. Buon anno nuovo. Ah, non è Capodanno, è Natale. Io sono andato avanti con i tempi, è sempre meglio portarsi avanti con i tempi, Drown in your river of tears. Yeah, you can cry your life, but it won't drown your mind. Davvero è bellissimo lavorare con Gianni, perché mi tiene sempre al corrente di tutti quelli che sono i pezzi che vanno in playlist. Sono in Nirvana? Perché io non sento bene. Vabbè. CRNP Radio Rock Revolution al Masado, Castelbuono, per questa vigilia di Natale. Siamo proprio contenti. Ciao, come ti chiami? Vincenzo. Vincenzo, te di Castelbuono? Senti un po' a disagio, come mai? Ah, che bello. Antonio, hai visto? Ciao. Ho sentito io. Ti mette panico quando lo vede? Perché ti mette panico? È pericoloso, eh? Che fai di male? Niente. Niente. Vabbè. Ah, attenzione. Va bene, c'è freddo, ci si riscalda, no? Bene, buon divertimento, ragazzi. Rock Revolution continua su CRM. Crowd, run away before you drown. Quanta bella gente questa sera al Masado. Bello, che bello, mi fa piacere. Auguri, auguri a tutti quanti, auguri a tutta Castelbuono. Castelbuono Rock questa sera, siamo molto contenti di essere qui. Che c'è? Che c'è? C'è un po' di casino. You got a great car. Yeah, what's wrong with it today? I used to have. e Blink 182, questo è un bel pezzo di qualche tempo fa che noi ascoltiamo sempre con molto piacere. Prossimo pezzo è un altro pezzo che abbiamo scelto con attenzione. Yeah. Ebbene, ahimè, siamo arrivati a conclusione di questa nuova puntata, ennesima puntata di Rock Revolution, per questa bellissima serata a Castelbuono al Masado. Poi continuerà adesso un DJ set di rock and roll. Chiaramente volevo ringraziare Simone Brancato che è stato con me. Simone, buonasera, buonanotte. Buonasera, buonanotte a tutti e ancora buon Natale a tutti voi. Buon Natale anche alla nostra redazione, Ida. Buon Natale, buonanotte. Buonanotte anche a te, caro Gianni, buonanotte anche a te. Ci fai gli auguri? Auguri. Bravissimo, proprio. Va bene, vi ringraziamo di essere stati con l'ascolto di CRM, con Rock Revolution, appuntamento chiaramente il prossimo anno, che non è poi tanto distante, il prossimo venerdì per altri artisti emergenti su CRM Happy Radio con Rock Revolution. Vi ringraziamo, buonanotte e tanti auguri a tutti quanti.